Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria per quello che riguarda il nostro viaggio, ormai praticamente siamo agli sgoccioli di avvicinamento verso la Brexit. Anche oggi avremo un approfondimento dopo aver fatto nei giorni scorsi varie posizioni. Oggi ci collegheremo direttamente con il nostro inviato a Londra, Sergio Nava, che ha raggiunto vari esponenti del mondo economico, chiaramente, visto il programma, sul tema Brexit. Devo dire che a questo punto anche i mercati, dopo essere stati molto scettici la settimana scorsa, aver recuperato a inizio settimana, ieri modestamente, adesso si stanno leggermente tutti, per quanto siano positivi, si stanno leggermente tutti quanti riposizionando. Milano più 0,20%, Parigi mantiene un rialzo dell'1%, Francoforte dell'1,20%, Londra dell'1,30%, il Dow Jones dello 0,35%. Milano in realtà guadagna meno, ma non ci sono cali particolarmente significativi. Perde Saipem l'1%, Eni lo 0,90%, Snam pure A2A meno 0,60%, come Yux, Net-a-Porter e Ferrari ed Enel. Mentre vanno bene UbiBanca più 2,60%, Azimut più 2%, UniCredit più 1,90%, e tra i non bancari ST Microelectronics più 2,60%, Moncler più 1,80%, poi Buzzi Unicem più 1,60%, bene anche Finecobank più 1,70%, Telecom più 1,40%, Generali più 1,30% ed Exor pure, Ferragamo più 1%, come la Pop Milano e la Popolare Emilia Romagna. Euro su dollaro a quota 1,1285. I temi di questa giornata economico-finanziaria, oltre chiaramente all'appuntamento, all'aggiornamento sulla Brexit, di Brexit, come oggi sa chi ha letto Sole 24 Ore, questa mattina lo avevamo anticipato, si è parlato molto nel forum oggi pubblicato su tre pagine del giornale, a cui hanno preso parte il governatore della Banca d'Italia Visco, il ministro Padoan, il numero uno di Intesa San Paolo Messina, Prodi, giusto per citare i principali protagonisti. Si è parlato molto anche di Brexit e ascolteremo anche alcuni passaggi di quanto dichiarato ieri nel corso del forum del Sole 24 Ore. Però trovate tutto l'estratto e tutto, diciamo, quello che si chiama lo sbobinato oggi proprio in tre pagine su Sole 24 Ore. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Parleremo, dicevo, anche di questo e avremo anche aggiornamenti su una vicenda che si chiama Meridiana. Infatti sta precipitando la situazione sulla compagnia aerea Meridiana. In ballo ci sono 955 esuberi su 1600 dipendenti, ma Qatar Airways questa mattina si è ritirata dal tavolo di negoziazione perché ha giudicato troppo chiuso l'atteggiamento dei sindacati. Sta cercando di mediare il ministro Delrio, il quale però ha dichiarato poco fa: ci sono molte difficoltà, abbiamo ripristinato i contatti, ma ci sono molte difficoltà a riportare Qatar Airways al tavolo delle trattative. I sindacati dicono invece che ci sono le condizioni per chiudere, insomma, qua, per chiudere Meridiano o per chiudere il contratto, perché a noi non sembra, da quello che leggiamo, che vi siano tutte queste condizioni. Speriamo invece che poi torni al tavolo delle trattative Qatar Airways e si possa realmente chiudere. Nel frattempo, sul fronte metalmeccanici invece il contratto si fa difficile, nel senso che lo dichiara lo stesso segretario generale della FIMCIS Bentivogli: è il contratto più difficile della storia dei metalmeccanici. Perché adesso ci sono altre 4 ore di sciopero annunciate, blocco degli straordinari a oltranza finché non sarà riaperta la trattativa. Quindi i sindacati dei metalmeccanici hanno rilanciato la mobilitazione per il rinnovo del contratto, perché ancora non c'è un punto di unione con la proposta di Federmeccanica. Da questo punto di vista, insomma, la trattativa appunto si fa difficile, la seguiremo anche nei prossimi giorni al netto della Brexit. Per quello che mi chiedete di petrolio, guardate, il petrolio in questi giorni è poco mosso, anche se mantiene una sua quota a 48, 49, 50, oggi risalito a $50 al barile, quindi una quota decisamente più alta rispetto ai minimi da 33, 32, 34 dollari al barile, assolutamente lontana da quello che l'OPEC riterrebbe una quota già accettabile, 70-75 dollari al barile. Rapidamente le altre notizie in breve. E vorrei partire da una cosa che riguarda l'economia, ma riguarda i nostri ragazzi soprattutto, perché tra i temi della maturità, ieri abbiamo avuto la lunga diretta come ogni anno notte prima degli esami con il nostro Taddia, per cui insomma, e non solo, tantissimi ospiti a testimoniare cosa era stata la loro maturità. Dicevo, oggi per il saggio in ambito economico c'era una traccia relativa al PIL e un'altra sul rapporto padre-figlio. Il rapporto padre-figlio nelle arti, la letteratura e vabbè, quelli che sceglieranno, che hanno scelto il saggio in ambito artistico, quelli che hanno scelto quello economico dovranno riflettere sul tema crescita, sviluppo e progresso sociale. È il PIL misura di tutto? E su questo sentiamo in 100 secondi di Radio 24, Sole 24 Ore, a firma oggi del vice direttore del Sole 24 Ore Alberto Orioli. Ricordo che sono trasmessi anche su Radio Dimensione Suono. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Alberto Orioli. La traccia per il saggio breve della maturità prevede anche un'analisi sul PIL come misura del benessere economico di un paese. Misura grossolana, dice la stessa traccia, tuttavia anche molti dei fattori di benessere che non rientrano nel calcolo del PIL, quali la qualità dell'ambiente, la tutela della salute, la garanzia di accesso all'istruzione, dipendono in ultima analisi dalla ricchezza di un paese, quindi dallo stesso PIL. Il testo del Ministero cita una celebre frase riportata tra l'altro in un articolo del nostro collega Vito Lops. Diceva Robert Kennedy: il PIL non tiene conto della salute delle nostre famiglie, della qualità della loro educazione e della gioia dei loro momenti di svago. Misura tutto, in poche parole, eccetto ciò che rende la vita veramente degna di essere vissuta. Può dirci tutto sull'America, ma non se possiamo essere orgogliosi di essere americani. Retorica trascinante, non c'è dubbio, parole di grande fascino, ma che rimandano certamente a come un paese investe le proprie ricchezze e agli stili di consumo dei suoi cittadini. Se aumentano gli investimenti in istruzione, formazione e capitale umano, è molto probabile che si possano raggiungere anche gli obiettivi tanto immateriali quanto preziosi citati da Kennedy. Se un paese produce missili e non corsi di formazione o pane, non è colpa del PIL. Il filosofo economista Amartya Sen ha proposto di misurare anche il prodotto interno di felicità di ogni paese, di sostituire il PIL al PIL, per cercare di identificare una nuova misura sul grado di soddisfazione dei cittadini, della qualità della vita e della sostenibilità economica. Un'idea che può rappresentare indubbiamente una rivoluzione, che vede per ora però al primo posto del nuovo indicatore il minuscolo stato del Bhutan, un angolo di paradiso, non c'è dubbio, che ogni italiano però credo non cambierebbe con casa propria. Il caro vecchio PIL insomma non è poi così antico e soprattutto è ancora l'unica misura, perché di questo si tratta, di una misura che tra l'altro può consentire dei paragoni affidabili tra gli stati. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. Allora, su questo, riallacciandoci al ragionamento che faceva Alberto Orioli, visto che è un passaggio epico, era il discorso che tenne Bob Kennedy all'Università del Michigan, se non ricordo male, per adesso vado a memoria su questo, chiedo venia, è un discorso bellissimo, ve lo facciamo riascoltare perché già nel passato qualche volta l'abbiamo ascoltato. Premetto, come ha già detto anche Alberto Orioli, che è tutto vero, però allo stato dell'arte un indicatore sintetico, impreciso, grezzo, che fa la media di Trilussa sull'andamento dell'economia, migliore del PIL, che resta un indicatore assolutamente approssimativo, era l'Università del Kansas, mi fanno notare, non l'abbiamo trovato. Ed è vero che Amartya Sen ha proposto di misurare la felicità, dopodiché su come e su quali indicatori debbano entrare nella misura della felicità. Sappiamo benissimo che l'indice della felicità della filippina, si diceva una volta, ossia della colf che lavora, è più alto di chi le dà il lavoro, pur avendo lei un reddito molto più basso. Ne abbiamo parlato molte volte quando ancora si riusciva a fare dei programmi, un programma diciamo un po' più di medio lungo termine, non sempre legato alla cronaca giorno per giorno, come da quando è scoppiata sta crisi o sto cambio di paradigma. Però quindi il PIL è pieno di limiti. È anche vero che non abbiamo trovato, un po' per parafrasare il concetto di Churchill di democrazia, non abbiamo trovato un indicatore migliore. Ma ascoltiamo cosa disse, perché è ancora di estrema attualità, all'Università del Kansas nel 1968, quindi 47 anni fa almeno, Bob Kennedy. Too much and for too long. Con troppa insistenza e troppo a lungo, sembra che abbiamo rinunciato alla nostra eccellenza personale e ai valori della nostra comunità in favore del mero accumulo di beni terreni. Il nostro prodotto interno lordo ha superato gli 800 miliardi di dollari l'anno, ma quel PIL, se giudichiamo gli Stati Uniti in base a questo, comprende l'inquinamento dell'aria e la pubblicità delle sigarette e le ambulanze per sgomberare le strade dalle carneficine. Comprende serrature speciali per le nostre porte di casa e prigioni per coloro che cercano di forzarle. Comprende l'abbattimento delle sequoie e la scomparsa delle nostre bellezze naturali nel caos della deregolamentazione urbanistica. Tiene conto della produzione di napalm e delle testate nucleari e delle auto blindate della polizia per fronteggiare le rivolte urbane. Comprende il fucile di Weedham e il coltello di Speck e i programmi TV che esaltano la violenza al fine di vendere giocattoli ai nostri bambini. Eppure il PIL non tiene conto della salute dei nostri ragazzi, la qualità della loro educazione e l'allegria dei loro giochi. Non include la bellezza delle nostre poesie e la solidità dei nostri matrimoni, l'acume dei nostri dibattiti politici, l'integrità dei nostri funzionari pubblici. Non misura né il nostro ingegno, né il nostro coraggio, né la nostra conoscenza, né la nostra passione, né la fedeltà alla nostra patria. In altre parole, misura tutto eccetto ciò che rende la vita degna di essere vissuta. Ci dice tutto sull'America, eccetto il motivo per cui siamo orgogliosi di essere americani. No, voglio dire, discorso bellissimo, nulla da dire. Poi ripeto, trovare una sostituzione dell'indicatore PIL non ce l'abbiamo ancora fatta. Chi mi chiede, ma lei alla sua maturità a 18 anni sarebbe stato in grado di sviluppare un tema sul PIL? No, no, infatti fece un tema di storia, che mi piaceva. No, insomma, un tema difficile, però erano i miei 18 anni e visto che l'economia, ahimè, non si insegnava quando avevo 18 anni io e si insegna ancora poco adesso, trovo corretto invece, ed è invece elemento quotidiano di dibattito politico e non solo economico, oltre che insegnare di più nelle scuole, trovo corretto che si faccia un tema anche su questo, se no questi ragazzi escono e non capiscono perché economia e finanza siano diventati il tema. Oh, allora, c'è, visto che parlavamo di America, però andiamo da Bob Kennedy a Barack Obama. Che cosa è successo? Che Barack Obama ha elogiato ieri un'impresa italiana. Noi siamo sempre bravi a piangerci addosso, a dire che non funzioniamo, meno bravi a riconoscere le nostre eccellenze delle volte. C'è un po' questo gioco tafazzista in Italia spesso. Cosa ha detto Kennedy? Cosa ha detto Obama ieri? Ha elogiato l'investimento italiano, un investimento privato a Circleville, elogiandolo perché quell'investimento italiano sarà il più grande intervento privato in una parte del Midwest americana che ha bisogno di occupazione e creerà centinaia di posti di lavoro. E il destinatario dell'elogio di Barack Obama era un'azienda di Lucca, è un'azienda di Lucca. Lucca, lo dico per chi non lo sapesse, è un pochino anche Pistoia, sono il distretto mondiale della carta, carta igienica, carta fazzoletti, qualunque, cioè tutta la maggior parte della carta che non sia carta per scrivere, per farsi capire da tutti, viene prodotta, e quella di eccellenza viene prodotta proprio nel distretto di Lucca. Noi abbiamo il primo posto come export di carta per motivi igienici a livello mondiale, e l'impresa si chiama Sofidel ed è il colosso lucchese che tra l'altro produce la celebre carta Regina. Il nostro Giorgio Stamatopoulos ha raggiunto Luigi Lazzareschi, che è amministratore delegato proprio di Sofidel. Quando me l'hanno accennato io mi sono messo a piangere almeno una decina di minuti, sono stato molto commosso. Per noi è un motivo di orgoglio molto molto molto importante. Abbiamo partecipato all'evento dove appunto Obama ha fatto riferimento alla nostra azienda negli ultimi 3 anni. Quest'anno non c'ero stato perché appunto avevamo già intrapreso questo grande investimento per noi. E questo è un evento che ha creato l'amministrazione di Obama, a cui Obama è sempre stato presente. È il primo anno però magari che fa 2 citazioni, ha citato la nostra azienda e un'azienda indiana, tutti e due che hanno in programma importanti investimenti sul territorio americano. Soprattutto partiti da zero praticamente, questo anche che è stato sottolineato, no? Il nostro progetto, non conosco quello indiano in particolare, ma quello nostro è un progetto Greenfield che viene in fase di costruzione adesso, è nello stato dell'Ohio, in una piccola città a sud della capitale dell'Ohio, Columbus, Circleville. L'amministrazione americana, ma probabilmente magari anche altre, ma non mi sembra proprio quella italiana, abbiano costruito questo genere di eventi per attirare importanti investimenti esteri. Questa qui, Select USA, non so se chiamarla una kermesse, che ormai dura il 3° anno e che attrae investitori da tutto il mondo. Tutti gli stati hanno le loro agenzie per lo sviluppo e attrarre investimenti su quel mercato. Ci dovrebbe fare un salto qualcuno della nostra politica, secondo lei, per vedere come funziona? Penso di sì, ammesso che ci sia volontà, poi, perché fino a qualche anno fa forse non c'era neanche più che tanta la volontà di attrarre investimenti stranieri in Italia. Oggi penso che sia sicuramente una necessità. Oh, la battuta è facile, basterebbe anche la volontà di attrarre investimenti italiani in Italia, perché faccio notare, adesso non abbiamo tempo per parlarne, che gli Stati Uniti, i singoli stati mettono a disposizione dell'imprenditore che volesse lì sviluppare un'attività produttiva, una volta che controllano tutta la tua posizione, ti danno anche il tutor, cioè c'è una persona che è indicata dal governatore per aiutarti a svolgere tutte le pratiche burocratiche, darti tutte le agevolazioni possibili, quindi ti prende per mano e ci pensa lui. Ma fatevi raccontare, adesso porteremo qualche caso prima o poi, cose che per noi sembrano Marte, capito? Marziani, addirittura il tutor per l'imprenditore, oltre che darti tutte le agevolazioni di carattere fiscale che hanno a disposizione. Quindi magari ci fosse il tutor per i nostri imprenditori quando decidono di investire in Italia e non quello in autostrada. Allora andiamo avanti invece sul tema della cronaca. Oggi una buona notizia all'interno di una notizia che comunque resta negativa, mi riferisco ai morti sul lavoro nel 2015 e agli infortuni, perché le cause di infortunio hanno avuto un calo del 4% e i morti sul lavoro, seppur ancora troppi, perché anche un morto sul lavoro è troppo, sono calati da 708 a 694. Faccio notare che siccome in Italia la legge ti considera morto sul lavoro anche quando ti stai dirigendo al lavoro, però obiettivamente non possiamo dare colpa alla mancata sicurezza di un luogo di lavoro se tu fai un incidente anche non per colpa tua mentre stai andando al lavoro, ma la legge questo prevede. Lo dico perché su 694 morti quasi il 60% è avvenuta mentre ci si recava al lavoro o con un mezzo di trasporto o in itinere. Petrolio, oggi l'assemblea dell'Unione Petrolifera Italiana. Allora, il prezzo del greggio, dice Lupi, ha ricominciato a salire più 90%, ma la bolletta petrolifera per il 2016 si attesterà ai minimi da 20 anni, ossia fra i 13 e i 15 miliardi di euro. E il blocco della Val d'Agri inciderà tra gli 800 e i 900 milioni di euro. Questo perché l'anno scorso vi è stato un prezzo medio intorno ai $51. Quest'anno, nonostante gli ultimi strappi e aumenti, l'Unione Petrolifera si attende comunque un prezzo medio più basso dell'anno scorso, a $39 al barile. La fattura energetica, che non è solo quella petrolifera ma è tutta, anche questa si attesterà ai minimi da 15 anni. tra i 28 e i 29 miliardi. Nei primi 5 mesi del 2016, dice l'Unione Petrolifera, gli automobilisti hanno risparmiato circa 3 miliardi di euro rispetto ai primi 5 mesi del 2015 come costo del prezzo del carburante. Fa notare l'Unione Petrolifera che è volato il contrabbando di prodotti petroliferi. Aggiungo io, strano, perché quando il prezzo si abbassa di un bene tendenzialmente c'è anche minor margine per il contrabbando, però i prodotti energetici consumati in frode sono stati pari a 191.000 tonnellate, sono triplicati, più 230% rispetto al 2011. E poi il presidente dell'Unione Petrolifera, Claudio Spinacci, esprime preoccupazione per la scarsa comprensione dei bisogni che ha il settore petrolifero in Italia, e l'ha espressa al microfono del nostro Giorgio Stamatopoulos. Siamo preoccupati della non comprensione dell'evoluzione temporale che questo settore affronterà. Siamo sicuri che l'evoluzione sarà verso una economia low carbon, ma siamo altrettanto convinti che questa transizione impiegherà decenni. Pertanto per noi è indispensabile mantenere le risorse che normalmente autoproduciamo per continuare a operare in sicurezza e con la consueta affidabilità. Il rischio è che qualcuno pensi che non c'è futuro per il nostro settore, che la fine del settore petrolifero avvenga in 3-4 anni, 5 anni, e che quindi non valga la pena sostenerlo evitandogli costi assolutamente insopportabili. Siamo pronti per le auto elettriche? Mi pare che è venuto molto chiaro dal dibattito che l'auto elettrica non è certo pronta per una mobilità di massa immediata, potrà avere un uso, diciamo, limitato nei centri storici delle città, ma per un uso di massa ha talmente tante limitazioni tecniche in questo momento che dovrà aspettare alcuni decenni ancora. Allora, 17:32 minuti, 349-238-6666 per WhatsApp e SMS, poi la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. La borsa ha chiuso invariata, a questo punto Milano si è mangiato tutto il guadagno, più per Saipem, meno 1,70, media 7-1,30, bene i bancari anche se senza grandi andamenti. Ne riparliamo dopo il meteo e la pubblicità. Ma parliamo anche del forum, anche a proposito di borse, di banche, di tenuta del sistema, quanto emerso ieri dal forum del Sole 24 Ore con il ministro dell'economia Padoan, il governatore della Banca d'Italia Visco, il numero uno di Intesa San Paolo Carlo Messina, Romano Prodi e altri ospiti. State ascoltando un programma offerto da... Se nella tua azienda c'è Inaz, c'è solo il bello del lavoro. www.inaz.it. Focus Economia. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Fra poco arriviamo alla borsa. Adesso è successo qualcosa negli ultimi minuti, perché adesso l'indice FTSE MIB corretto, ma tutte le borse hanno avuto una correzione, ma negli ultimi 4-5 minuti, perché guadagnavano un punto e mezzo. Adesso Parigi si limita allo 0,20, Francoforte più 0,5, Londra più 0,90%. Sto cercando se c'è sfuggita qualche agenzia degli ultimi minuti, e Milano ha girato in negativo meno 0,60, niente di grave, però visto che era positivo di uno 0,3-0,4%, il cambio di segno è avvenuto proprio in questi ultimi minuti. L'avevamo previsto, cosa che sta capitando da settimane con la Brexit. Basta l'ultimo sondaggio dell'ultimo sondaggista che dice che sono tornati in vantaggio i leave e le borse vanno giù, e invece l'opposto, se tornano in vantaggio i remain, le borse vanno su. Però prima di arrivare alla borsa restiamo sul tema della Brexit, perché ieri in questo forum, che oggi occupa giustamente ampio spazio sul Sole 24 Ore, tre pagine erano presenti i vertici istituzionali dell'economia italiana, mi riferisco al ministro Padoan e al governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco, e anche il numero uno di Intesa San Paolo Carlo Messina, vari giornalisti del Sole 24 Ore che hanno intervistato, interrogato, dibattuto con gli ospiti, tra cui Guido Gentili, editorialista del Sole 24 Ore. Guido, buonasera. Buonasera. Che eri anche ospite, no? Sì, certo. Certo, nel senso. Ospite e padrone di casa insieme. Allora, infatti, e si vede molto bene dalle foto di oggi sul Sole 24 Ore. Però, si è parlato di sistema bancario e quant'altro. Poi arriviamo alla Brexit, Guido, sì, perché abbiamo anche una pagina con il nostro Sergio Nava da Londra. Restiamo un attimo sul tema bancario, banche, e le preoccupazioni, i timori espressi. A me è impressionato, tra le tante cose, perché è difficile sintetizzare tre pagine in un breve collegamento, il fatto che il numero uno di Intesa San Paolo Messina, se non ricordo male, abbia detto attenzione che comunque il danno, se ho ben capito il ragionamento, di questo referendum, anche qualora dovessero vincere, come tutti ci auguriamo, i Remain, il danno è già stato fatto, capito bene? Hai capito molto bene, e anche a me ha impressionato, di tutti gli interventi che ho ascoltato e il dibattito che ne è seguito, insieme alle personalità che ci hanno detto, c'era anche poi l'ex presidente del Consiglio Prodi certo, Mario Monti, l'ex presidente Mario Monti e appunto Carlo Messina di Intesa. Beh, proprio l'analisi di Messina a me è sembrata quella più fresca, diciamo, più realistica, proprio sulla condizione, la percezione che si ha sui mercati. Tra l'altro, diciamo, Messina parlava proprio da Londra, dove stavo incontrando investitori ed esponenti del mondo finanziario anglosassone, diciamo così. E beh, insomma, la percezione è che se si dovesse instaurare un periodo di grave incertezza, a pagare il prezzo più alto probabilmente rischia di essere l'Italia, vuoi per l'alto debito pubblico, vuoi per la situazione del sistema bancario, che Messina ha ricordato, ovviamente sappiamo che le sofferenze, quelle nette, sono inferiori a quelle di cui si parla, alle sofferenze lorde, sappiamo che ci sono delle garanzie che sono state messe, sappiamo tutto questo, però dobbiamo mettere in conto che la percezione dei mercati, qualora ci fosse una fase di incertezza, è di grande difficoltà per l'Italia, e io credo che le cose stiano veramente così. E infatti ha parlato di un quadro più fragile, non riferito genericamente all'Europa, ma all'Eurozona. Nell'Eurozona noi siamo, diciamo, nella parte dei paesi cosiddetti periferici, diciamo, dal punto di vista delle difficoltà che abbiamo sul fronte del debito, e quindi aver messo l'accento su questo ha fatto addirittura qualche numero, ha detto, dice, rischiamo un, diciamo, 50-70 punti base di aumento dello spread, non andremo mai alla situazione del 2011 perché c'è il mantello della Banca Centrale Europea che ci salvaguarda da questo, quindi non andremo a una crisi di quel tipo, però rischiamo di avere comunque un momento di grave difficoltà con la quale dovremo fare i conti. Questo mi sembra. Sì, e ripeto, la cosa più impressionante importante è che fino adesso noi abbiamo visto, io vedo anche molti messaggi, giustamente siamo in democrazia, di chi dice no, noi siamo perché la Gran Bretagna esca, così iniziamo a smantellare quest'Europa. Va bene, uno può pensarla come vuole, eh. Io faccio notare che i rischi, i danni sono certi, i vantaggi probabili o ipotizzati, perché non c'è un soggetto. Poi possiamo dire, come diciamo anche ieri, che anche la Federal Reserve, che anche la Casa Bianca, che sono tutti, diciamo, sostanzialmente che si sbagliano tutti, però non c'è un soggetto istituzionale al mondo che dica oh che bello, la Gran Bretagna esce dall'Unione Europea e andrà tutto meglio, non ce n'è uno. Poi certo ci sono quelli che avendo in odio l'Europa dicono bene, così iniziamo a smantellare l'Europa. Auguri, mi sembrano un po' i ragionamenti che sentivamo fare con l'euro, usciamo dall'euro che tutto andrà meglio. Poi appena abbiamo visto la scorsa estate a giugno, eravamo in questo periodo, i pensionati greci fanno la fila non perché erano usciti dall'euro, ma perché gli avevano bloccato il prelievo massimo consentito, 50 euro al giorno, che era il primo passaggio verso un'uscita se non cambiavano le cose. Lì tutti si sono presi paura. No, perché poi A me questi geni dell'andrà tutto meglio mi fanno sempre impazzire. Poi veniamo a dormire a casa loro. Meglio poveri ma liberi, mi scrive uno. Vabbè, direi meglio ricchi ma liberi. Meglio poveri ma liberi, vado a raccontarlo in giro, va bene. Se la gente la pensa così, ci mancherebbe. Ma dicevo, tornando a noi, Guido, che Messina ha fatto un discorso molto scettico, molto preoccupato, anche in caso di vittoria dei Remain, perché ha aggiunto... C'è anche un problema di messaggio che, come tu ricordavi, fuori è stato dato. Cioè, questa Europa è l'area, la Cina le sue difficoltà, ma l'area più incasinata politicamente nella gestione, in quella che si chiama governance, è l'Europa. E poi perché a questo punto bisogna capire, la Gran Bretagna resterà con gli stessi rapporti di forza? Vi sarà la tentazione, diciamo, di dire adesso basta? Oppure resterà con una forza maggiore? Cioè, si apre comunque un periodo di incertezza. Ecco perché sentiamo questo passaggio nel forum di ieri. Carlo Messina ha detto anche che sarà importante vedere le percentuali di voto, perché certo anche lì dubito che siano così distaccati, però se dovessero stravincere i Remain e dire vabbè è stato un tentativo ma in realtà, allora forse potresti avere un rientro più morbido. Quello che vedo come un'attenzione particolare è soprattutto la percentuale con cui si potrà avere un esito Brexit oppure Remain, e se la percentuale sarà molto forte certamente di permanenza, questo potrà portare un esito che viene visto molto positivo sui mercati. Se la percentuale non è forte, comunque anche nel caso di rimanere nell'Europa, questo non verrebbe visto come un elemento di grandissima positività, perché si è creato un vulnus nel meccanismo di permanenza e comunque nel toccare elementi che vanno dal populismo ad altre scelte. In ogni caso qui in Gran Bretagna l'indebolimento del partito conservatore non viene visto come un elemento di stabilità. Quindi secondo me ci sono delle considerazioni, alcuni un po' più negativi, altri con una visione strutturalmente un po' più positiva, ma la critica forte che vedo è alla gestione dell'Europa, oltre che alla posizione di Cameron come promotore del referendum. Eh sì, comunque vada, abbiamo perso un po' tutti, in primo luogo Cameron, Guido Gentili, cioè la gestione della cosa è stata, no? Poche idee ma confuse. Insomma, secondo me ha sbagliato e non di poco nell'indire un referendum, che tra l'altro sul piano tecnico-giuridico sappiamo che un referendum consultivo, voglio dire. Per cui poi ci vorranno due anni per decidere come uscire, dovessero vincere. In ottobre sarà il Parlamento che dovrà ratificare questa scelta, ci vogliono due anni di trattative per vedere come uscire e, come ha detto qualcuno proprio durante il forum, il nostro forum, forse mi pare l'ex presidente del Consiglio Mario Monti, dice due anni per trattare come uscire e poi i cinque successivi per vedere come rientrare, insomma, quindi... Perché poi è chiaro che certo, non è così che si stacca la spina in 5 secondi, voglio dire. E quindi ecco da qui il periodo di incertezza comunque che noi avremo su questo terreno ed è quello a cui faceva riferimento appunto Carlo certo. Messina. Resta con noi Guido, una risposta rapidissima prima del traffico. Allora, i pensionati greci li ha affamati l'euro? No, attenzione. Continuate a confondere, abbiate pazienza, l'euro con l'Europa, la gestione dell'Europa. I pensionati greci, per rispondere a domanda, li ha affamati la gestione di Bruxelles della crisi greca. L'euro è il termometro, non si può dare la colpa al termometro della febbre, porca miseria. Quello che facciano, e quindi le critiche che abbiamo mosso in questi ormai 4 anni, 5 anni alla gestione tedesca e olandese della crisi greca, andate a scaricarvi i file, penso di aver fatto qualche decina di puntate su questo. Assurdo, assurdo che l'Europa si impantanasse per un paese della dimensione della Grecia, assurdo che si strangolasse e si chiedesse al debitore di rientrare strangolando, tutto assurdo, non hanno mai imparato la lezione i tedeschi, la lezione della storia. Detto questo, l'euro è la valuta, non è lui che decide, e faccio notare che in Grecia la maggioranza degli abitanti non vuole uscire dall'euro, ma tutti questi geni che mi scrivono, ma perché non si fanno la domanda perché i greci, che secondo voi avrebbero i massimi vantaggi a tornare alla dracma, non vogliono uscire dall'euro, nemmeno loro? O sono tutti pazzi pure loro e gli unici geni li abbiamo qui, oppure forse capiscono che l'impoverimento che deriverebbe dal ritorno della dracma, come potere d'acquisto, non compri più neanche un bene importato, sarebbe peggio il taccondo, il buso, traffico. Focus Economia. Di nuovo in diretta, sì, hanno ragione anche alcuni ascoltatori che dicono: attenzione, i pensionati greci sono stati affamati in primo luogo dalla gestione dissennata dei governi greci precedenti, quelli che hanno truccato i conti. Vedi, Guido, cosa non mi piace di questo ricorso così miracolistico all'uscita dall'euro, che poi ci si dimentica che il debito nostro l'hanno creato i nostri governi precedenti, l'evasione fiscale degli italiani, il malfunzionamento della pubblica amministrazione è nostro, capito? Non è dell'euro. E i greci si sono autoimpiccati, non vorrei essere così, con il fatto che hanno truccato i conti per anni, hanno vissuto per anni al di sopra delle loro possibilità, avevano un sistema di evasione fiscale e di garanzie per il pubblico impiego scandaloso, l'abbiamo raccontato. Dopodiché il Bruxelles ha sbagliato nel gestire un paese che si era, diciamo, fatto del male da solo. Comunque, su questo voglio ascoltiamo anche, sempre su Brexit, il ministro dell'economia Padoan, sempre nel forum del Sole 24 Ore, sui pericoli che si crei un precedente. E però invece subito dopo il governatore della Banca d'Italia Visco, che ha chiarito come la Banca Centrale Europea e la Bank of England abbiano già predisposto tutte le reazioni nel caso dovessero vincere i Leave. Sentiamo quindi prima Padoan e poi Visco. La mia percezione attuale dello stato del dibattito politico in Europa su questioni non necessariamente legate alla Brexit, ma legate ai temi generali, più integrazione e meno integrazione su vari campi, che non sto qui a dire perché sono ovvi, mi portano a dire: se c'è la Brexit c'è un modello di uscita, un buono o cattivo esempio, fate voi, io dico che sarebbe un cattivo esempio, ma è sempre un esempio, che potrebbe essere replicato o ci potrebbe essere la tentazione di replicarlo da parte di altri paesi. Noi siamo sicuri che se c'è un'uscita, la decisione di uscire dall'Unione Europea, le conseguenze sui mercati finanziari le vedremo. Sul piano monetario siamo in grado di far di fronte e siamo in grado con tutto lo strumentario possibile, perché il rischio più grande è quello di un difetto di liquidità nei mercati o in particolari istituzioni finanziarie, e questa può essere risolta, questo difetto, con accordi di swaps sterlina, euro, sterlina, dollaro, con interventi specifici di rifinanziamento che si rifinanziano tanto istituzioni inglesi, in questo caso attraverso la liquidità che la Banca d'Inghilterra le potrà fornire, non soltanto banche, e contemporaneamente si può fare la stessa cosa al lato della BCE. Allora, no, accolgo la battuta di un ascoltatore che dice: beh, a questo punto torniamo a Sesterzo, così i romani erano bravi a gestire l'impero e torneremo alla gloria dell'impero romano. Già ci provò qualcuno negli anni 20. Comunque, Guido Gentili, a questo punto, oltre alle preoccupazioni di Messina, molto si è discusso, non abbiamo tutto il tempo, anche della situazione delle banche italiane e della tenuta del sistema bancario italiano a proposito delle sofferenze. Lì mi sembra che tutti siano rimasti un pochino più abbottonati, non so se sia un bene, prego. Beh, insomma, anche questa è una valutazione realistica, rimanere abbottonati, perché la situazione non è ovviamente da allarme rosso, è una situazione che però preoccupa le autorità monetarie, preoccupa gli stessi banchieri. Sappiamo che è una situazione molto complicata e molto difficile, lo leggiamo ogni giorno, diciamo, nelle cronache quotidiane questo, e i mercati lo registrano puntualmente. Oltretutto questo è uno dei punti che sono stati evidenziati, cioè nel momento in cui i mercati subiscono degli scossoni a motivo dell'incertezza che c'è su Brexit sì, Brexit no, e le borse scendono, da noi ovviamente i titoli bancari sono quelli che risultano i più colpiti, proprio perché c'è un problema nel problema. E quindi capisco la prudenza di ieri su questo punto, perché questo è un punto, ripeto, un problema, già il problema di Brexit è enorme, già l'incertezza generale è enorme, da noi si aggiunge questo dato che si chiama sofferenze bancarie, che si chiama sofferenze bancarie e che quindi è un dato suscettibile di creare nuovi problemi. Sì, alcuni mi stanno scrivendo, ma avete sempre detto che le banche italiane sono solide. Allora, se uno va a vedere i parametri di bilancio, non ho problemi a sostenere che in questo momento alcune banche italiane siano assolutamente sottovalutate dal mercato, perché se hanno ancora un senso i criteri, il CET e quant'altro, cioè il rapporto tra il patrimonio e gli impieghi. Dopodiché, perché sono sottovalutate? Perché c'è tutto il tema di come gestiremo le sofferenze bancarie a livello di sistema. E obiettivamente la vicenda del Fondo Atlante, con prima un impegno d'intesa, un incredito, poi un incredito si è sfilata, insomma, non è, è una vicenda in cui abbiamo quasi, come abbiamo raccontato ieri, finito i soldi, è rimasto un miliardo e mezzo nel Fondo Atlante dopo aver salvato Vicenza e con tutta probabilità anche Veneto Banca. A chi ci dice, ma insomma, se si è sbagliato bisogna avere il coraggio di tornare indietro, se non ci viene qualche domanda sul perché di questa disaffezione, no, la domanda ce l'abbiamo e abbiamo anche qualche risposta. Noi stessi non è che abbiamo mai lesinato critiche a questa gestione dell'Europa, e ieri dicevamo, e poi mi dite che io sono ormai ossessionato dalla Germania, che il paese che si è assunto il ruolo di guida della gestione post-crisi deve ammettere, come farebbe qualunque leader, se vuoi essere leader, se vuoi avere la capacità di avere e non hai paura della leadership vera, abbiamo sbagliato qualcosa, perché siamo a livello più basso di o più alto di disaffezione verso l'Europa, con una crescita economica che l'area euro ha visto come la più debole di tutte le aree geografiche e con il rischio di pulsioni diciamo di uscita dall'Europa. Secondo me la riflessione andrebbe fatta, non mi sembra che in Germania se la stiano ponendo come riflessione sulla gestione. Grazie intanto a Guido Gentili. Noi adesso andiamo su GR24, poi la borsa e poi ci colleghiamo con Londra. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, poi la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Sono dappertutto, arrivisti, truffatori, ladri, corrotti. L'Italia sembra perduta. Eppure un manipolo di eroi resiste. Se non vuoi cedere al lato oscuro della forza, ascolta. Si può fare. L'unico inimitabile programma di attualità ottimista. Siamo sicuri di farcela? Sicurissimi. Allora che la forza sia con noi. Si può fare con Alessio Maurizi e Carlo Gabardini. Il sabato alle 7.30 e la domenica alle 8.30 su Radio 24. Il segnale orario vi è offerto da Assicom. Vendi bene e incassa meglio. Marketing, informazioni commerciali e recupero crediti. Assicom.com. Sono Giovanni Minoli e vi aspetto tutti i giorni dal lunedì a venerdì dalle 9 alle 10 e mezza con l'attualità su Mix 24 e Gialli della Storia, naturalmente su Radio 24. Ascoltaci anche in Digital Radio. Bye bye Europa? Londra decide, dentro o fuori. Il 23 giugno il Regno Unito decide se rimanere nell'Unione Europea o lasciarla dopo 43 anni. Comunque vada, il referendum britannico ha già prodotto un terremoto che scuote il progetto europeo. Fino al 25 giugno, Radio 24 vi racconta come si è arrivati a questo punto, chi rischia di più e cosa accadrà dopo il voto. State ascoltando un programma offerto da... Se nella tua azienda c'è Inaz, c'è solo il bello del lavoro. www.inaz.it. Focus Economia. Minuti, adesso il commento di borsa e poi torniamo a parlare di Brexit, ma come attualità, nel senso al di là di, appunto dei ragionamenti fatti ieri nel forum del Sole 24 Ore da Visco, Padoan e Messina, quelli che abbiamo ascoltato poco fa. La borsa, dicevo, ha girato nel finale, meno 0,60 alla fine Milano, perde praticamente tutto il rialzo anche Parigi, più 0,2, Francoforte mantiene uno 0,5, ma anch'essa molto più debole rispetto a tutta la seduta, Londra più 0,50, l'America ha iniziato a calare, adesso è invariata, però chiedo conferma come sempre a Radio Corius, Sole 24 Ore, ciao Condina, buonasera. Ciao, buonasera a tutti. È arrivata da Wall Street il peggioramento? Ma no, perché in realtà Wall Street... infatti non capiamo, perché stiamo cercando notizie, ma proprio negli ultimi 10 minuti, prego. Sì, diciamo che i listini comunque venivano da... questo era il quarto giorno di rialzi, è vero che prima c'era stata una lunga fase di realizzi, però sostanzialmente hanno dimezzato le perdite in una giornata, i guadagni, scusate, in una giornata comunque molto volatile, in particolare per Milano. Milano era anche andata in negativo, non poteva essere altrimenti, visto che domani è previsto il referendum sulla Brexit, però va comunque tenuto conto che, come dicevo, è la quarta seduta consecutiva di rialzi, quindi consolidati i guadagni degli ultimi 3 giorni, e comunque dai mercati europei esce un messaggio anche abbastanza chiaro, stando a sentire gli operatori, cioè che si scommette sul fallimento del referendum. Allora, andando sui titoli invece, UbiBanca più 1,80, FinecoBank più 1,60, ST Microelectronics più 1,40, Moncler più 1,30, Azimut più 1,1, UniCredit più 0,80 come Ferragamo e Buzzi, Unicem, Telecom mezzo punto percentuale di rialzo come Generali. Fronte opposto, Saipem meno 2,40, Mediaset meno 1,90, Snam meno 1,60 come Banco Popolare, l'1,5 lo perde Eni ed Enel, ma anche il Monte dei Paschi, Unipol e Jux, Net-a-Porter, l'1,20% il calo di Prismian, Atlantia e Campari, ma anche di Fiat Chrysler, A2A meno 1,20% anch'essa, Tenaris meno 1% come Leonardo Finmeccanica. Andando sui titoli, dicevo... oggi il Banco Popolare era l'ultimo giorno di aumento di capitale, tra l'altro, se non ricordo male. Sì, era l'ultimo giorno, è un aumento di capitale che insomma è andato decisamente bene, era positivo, alla fine ha chiuso in ribasso dell'1,6%, ci sono molti titoli che erano positivi e poi alla fine hanno girato e, insomma. Bene, devo dire, i tecnologici, a partire da ST Microelectronics più 1,44. Sì, oggi il comparto high tech è andato molto bene in Europa, infine una Francoforte ha guadagnato oltre il 3% e ST si è posizionato in scia. Bene, come dicevi tu, anche alcuni bancari, a partire da UbiBanca che ha guadagnato l'1,8%, l'attesa è tutta per il nuovo piano industriale che verrà comunicato ai mercati lunedì prossimo. Ancora, da questo punto di vista, andando avanti invece, Eni, nonostante appunto un prezzo del petrolio che oggi era in leggero aumento, è calata dell'1,50% ed è rimasta negativa tutta la seduta. Sì, qui c'è lo stop della vendita di Versalis, la controllata di Eni che opera nel settore della chimica, una controllata che comunque è in perdita, brucia cassa, quindi Eni avrebbe venduto la maggioranza e l'avrebbe fatto uscire dal proprio perimetro. Chiaramente questa prospettiva non è più concreta e il mercato comincia a scontarla, si fanno già le prime stime sugli impatti negativi per il bilancio di Eni anche a livello di debito netto. Chiaramente ora bisognerà trovare un altro acquirente, far ripartire un'altra procedura e i tempi si allungano. Andiamo sui migliori e peggiori. Allora, tra chi ha ceduto, oltre a Saipem, meno 2,40 percento su Saipem. È un po' strano anche qui, tutte le utilities oggi sono deboli, abbiamo visto anche Snam A2A meno 1,20, Snam meno 1,60. A livello europeo deboli le utility. Su Saipem c'è il tema del, insomma, ieri era stata la migliore sulle voci di un collocamento di maxi bond a 1,5 miliardi, oggi c'è stato qualche realizzo, la debolezza di A2A già arrivava da ieri, Snam invece c'è da segnalare che settimana prossima presenterà il nuovo piano industriale con il previsto scorporo di Italgas. Ancora, per quello che riguarda i titoli, andiamo sui migliori e peggiori dal punto di vista della giornata. Il migliore è Innovatech più 32, Digital Bros più 11, Ageas più 7, TBS Group più 6,20, Club più 4%. Fronte opposto, Elettra Investimenti meno 11, Italia Independent meno 7,80, Bialetti meno 4,20, e Lucisano Media Group meno 3,60%. Grazie, intanto ciao Condi nella Radio Corri Sole 24 Ore, e noi alla vigilia praticamente, domani si vota, per cui chi dice ma ancora di Brexit parlate, sì ancora di Brexit parliamo, tanto dovete resistere ancora domani e poi venerdì parleremo dell'esito del referendum a questo punto. I just hope in the money, money, money, money, money. You love me, honey. I just hope in the money, money, money, money, money. You love me, honey. You got me singing Georgia. Allora, intanto ci colleghiamo subito con il nostro Sergio Nava, che è arrivato a Londra e seguirà domani e poi dalle 21 soprattutto, quando inizierà il lungo speciale di Radio 24 dedicato alla Brexit e al voto. Non vi posso dire, adesso chiedo conferma anche Sergio Nava, da quello che capiamo difficile che arrivi in nottata, addirittura c'è chi stima che possa arrivare anche oltre l'alba, quindi a inizio mattinata il risultato definitivo. Sergio, buonasera. Sì, buonasera Sebastiano, sì, confermo, il problema è proprio questo, non dovrebbero esserci exit poll, salvo sorprese, i primi dati dovrebbero arrivare da Sunderland, che è tradizionalmente la circoscrizione che per prima dà i risultati anche nelle elezioni nazionali, intorno alla nostra 1:30, e intorno all'ora di colazione britannica, quindi stimiamo intorno alle 5-6 del mattino italiane, più le 6-7 del mattino italiane, potremmo dover avere probabilmente il risultato finale, chiaramente. Sì, appunto, quindi in tempo, diciamo, per l'apertura dei nostri GR delle 6, 7 e 8. Il clima che si respira, Sergio, poi dopo il traffico andiamo su, tu hai raggiunto perché oggi hai realizzato le interviste soprattutto nella City, chiaramente per questo programma, poi con altri soggetti per quello che riguarda il GR, ma il clima che si respira? Il clima è molto molto molto incerto. La cosa che più mi ha sorpreso, poi sentiremo anche le interviste, è che all'interno della stessa City c'è un forte sentimento per la Brexit, non tanto a livello individuale, quindi persone che magari lavorano per la finanza, lavorano per le banche, lavorano per le imprese, quindi andando paradossalmente persino contro i loro stessi interessi, a livello individuale sostengono la Brexit. L'impressione è che, anche parlando con persone proprio diciamo, nel miglio quadrato della City, che ci sia una forte percentuale di persone che in realtà non lo dichiara ma voterà per uscire dall'Europa, e questo rende tutto molto più complicato. Molto più certo. Sì, questo è l'altro aspetto. Ieri facevamo notare che da un lato, mentre ci si avvicina la scadenza, che insomma è domani, gli indecisi prendono posizione, e gli indecisi, spesso non avendo una posizione ideologica in un senso o nell'altro, possono essere più tentati di dire beh, a questo punto piuttosto che con tutti i rischi che vengono ventilati restiamo nell'Unione Europea. Cioè non sono persone che ideologicamente, massimo rispetto, sono contrari all'Europa e quindi da sempre hanno detto yes Brexit, quindi yes we leave. Però dall'altro punto di vista tu hai ragione a far notare che nelle risposte, come già avvenuto in altri casi, siccome è più spinoso dire sì vogliamo uscire dall'Europa, ci può essere chi dice no no restiamo e poi vota al contrario. È una cosa che conosciamo nei sondaggi, per cui si tende a mentire sul voto che ritieni più imbarazzante, diciamola così. Dopo il traffico invece le tue interviste, 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Focus Economia. I just hope in the money, money, money, money, money. Love me, honey. I just hope in the money, money, money, money, money. Love me, honey. You got me singing Georgia. Allora, di nuovo in diretta. Non abbiamo mai detto che gli indecisi, quindi non essendo ideologicamente orientati, voteranno tutti in massa per restare. Abbiamo solo detto che il ragionamento che ci è stato fatto in diretta ieri, e cioè che tra gli indecisi, proprio perché non hanno una idea precisa su cosa votare, potrebbero essere più sensibili a rischi previsti nell'uscita. Ma ripeto, allo stesso tempo c'è invece chi dice no, chi non ha coraggio di ammettere che voterà per uscire. Per cui anche oggi gli ultimi sondaggi danno, ragazzi, insomma, al Financial Times un punto avanti i Leave, un punto avanti il Remain, quindi chi voterà sì all'uscita 45% contro il 44% di chi voterà no e quindi Remain, restare nell'Unione Europea. Sergio, chi hai raggiunto tu oggi? Allora, iniziamo con la prima intervista, direi, Sebastiano, che sono raggiunto Brunello Rosa, che è Managing Director of Research, soprattutto per l'Europa occidentale, di Rubini Global Economics. Con lui abbiamo innanzitutto fatto un po' un punto su quali potrebbero essere le conseguenze di una Brexit, che era anche un scenario tra virgolette peggiore, soprattutto per i mercati venerdì, ma anche guardando a quelle che potrebbero essere le conseguenze sulla stessa Gran Bretagna. Allora sentiamo cosa ci ha detto Brunello Rosa. Allora, dalle nostre stime risulta che se la Gran Bretagna uscisse dall'Unione Europea ci potrebbe essere un impatto sul PIL nell'ordine dell'1%, sia nel 2016 che nel 2017. Va detto che queste sono stime minime. Se includessimo effetti derivanti da possibili non linearità, come si dice, quindi eventi imprevisti, l'impatto sarebbe molto maggiore. George Soros ha preventivato un possibile venerdì nero sulle piazze finanziarie in caso di un voto per lasciare l'Europa. Voi siete d'accordo? Sì, molto probabilmente i mercati reagirebbero inizialmente molto male, in realtà probabilmente già dalla notte del giovedì, con la Nuova Zelanda, l'Australia e il Giappone che aprono poco dopo gli exit poll. È prevedibile un forte calo delle borse, spinto soprattutto da un calo dei titoli bancari e finanziari, una rincorsa ad accaparrarsi titoli di Stato ritenuti più sicuri, siano i treasury americani, siano i bund tedeschi o il JGB giapponese, e probabilmente anche altri beni rifugi tipo l'oro. Uno dei temi più toccati nelle ultime settimane è stato quello degli effetti anche sull'Italia. L'Italia è a rischio in caso di Brexit, soprattutto vista, insomma, il nostro appartenere a quella fascia di paesi mediterranei più toccati dalla crisi. L'Italia è a rischio, come tutti i paesi vulnerabili, a causa della bassa crescita e dell'alto debito pubblico. Quindi un'Europa che tornasse in recessione vedrebbe molto probabilmente un'Italia tornare anch'essa in recessione, probabilmente più della media europea. Per questo motivo, quando si dice che gli scambi diretti o l'esposizione diretta dell'Italia alla Gran Bretagna è minore rispetto a quella di altri paesi, e per questo motivo l'Italia sarebbe meno esposta, non si tiene conto delle vulnerabilità generali del paese rispetto a quelle specifiche verso la Gran Bretagna. E allora questo, appunto, chi lavora per Rubini, perché Rubini Global Economics è quello fondato da Nouri Rubini, il primo economista che azzeccò, previde la grande crisi del 2008, Dr. Doom, se non ricordo male, lo chiamavano, perché dicevano che portasse sfiga, in realtà ci aveva visto giusto. Si ragionava, la cosa interessante, noi prima abbiamo sentito il numero uno di Intesa San Paolo, Messina, ma anche appunto il governatore Visco e il ministro dell'economia Padoan nel forum del Sole 24 Ore, ieri qui a Sole 24 Ore, sulla Brexit. Tu hai raggiunto chi lavora per Intesa San Paolo, però per chiedergli, appunto, al di là delle previsioni di Intesa San Paolo, se c'è anche nella City qualcuno che non ha il coraggio di dirlo, ma in realtà tifa per uscire. Sì, che è un po' il discorso che facevamo prima, che parlando sia, ma anche lo stesso Brunello Rosa mi diceva, aveva fatto un piccolo sondaggio tra chi lavora, insomma, nel settore finanziario, e esattamente come Marco Longo condivideva questo, cioè molti di coloro che lavorano nella City in realtà voteranno Brexit, impossibile stabilire quanti, però c'è questa nicchia. Sentiamo allora infatti cosa c'è. Allora, Marco Longo, General Manager Dove Europa Hub di Intesa San Paolo. Chiacchierando con colleghi inglesi ho riscontrato che il sentimento di sovranità e di nazionalismo ha presa anche in persone non sospettabili per, diciamo, levatura culturale o proprio per interessi professionali. Cosa si aspetta lei da una possibile Brexit, da una possibile uscita dall'Unione Europea? Ci saranno vari stadi di impatto? Possiamo distinguere gli effetti in tre step successivi. Ci saranno sicuramente quelli immediati, dove la prevalenza è speculativa di mercato. Siccome l'uscita non è immediata, perché ci saranno i soliti, cioè i due anni previsti dal trattato, i corporate rimarranno abbastanza in attesa di vedere qual è lo sviluppo, quindi ridurranno probabilmente gli investimenti in attesa di capire che cosa succede in UK e nei rapporti UK-Europa, e poi successivamente, quindi nel lungo termine, una stabilizzazione sia degli investimenti che dei mercati. Cosa ha da perdere la City da una Brexit? Quale impatto potrebbe avere? Anche perdita di centralità, si dice, in Europa. La City ha guadagnato in questi anni una posizione invidiabile in termini di attrazione da tutto il mondo. Sicuramente perché era il punto di partenza per i non EU per il mercato europeo, ma anche perché è riuscita a creare un ambiente legislativo e di networking assolutamente invidiabile. Credo che questo, prima di scomparire, ci vorrà molto tempo, quindi la City rimarrà, secondo me, comunque una piazza finanziaria fondamentale nella dinamica mondiale. I due o più anni di incertezza non faranno certo bene alla City in caso di Brexit. No, perché ovviamente non si sa dove si deve andare a planare, quindi non ci sarà l'esodo delle aziende non EU sicuramente, ci saranno dei riposizionamenti, perché sarà più agevole il passaporto per i non europei a Francoforte piuttosto che a Parigi. Allora, devo rispondere a alcuni sms. Noi tifiamo che la Gran Bretagna resti, ma non perché me ne freghi molto, adesso detto onestamente, dei britannici, perché tutte le previsioni vedono un danno anche per l'Italia nell'uscita della Gran Bretagna a causa dell'incertezza. L'abbiamo sentito qualunque soggetto, allora o sono tutti impazziti, oppure il fatto che infatti le banche centrali si stanno preparando nel caso di un voto per uscire. Per cui io, essendo italiano, tifo il meglio che posso ritenere per me, e ritengo che il meglio per noi sia che la Gran Bretagna resti. Non abbiamo bisogno di altre tensioni dentro l'Unione Europea da questo punto di vista, lo dico. E poi, ripeto, ma le stesse fabbriche, come ricordava anche prima Sergio Nava, in Gran Bretagna non c'è solo la Ford, hanno mandato lettere ai loro dipendenti dicendo attenzione a quello che potrebbe capitare. Sergio, da questo punto di vista, domani la giornata, ricordo come si svolge, la regina non vota, voglio ricordare a tutti che non vota per il quorum, ci chiedono molto del quorum, in realtà, prego Sergio. No, diciamo che, allora, innanzitutto sono 46 milioni e mezzo gli inglesi che voteranno. È un referendum consultivo anche, attenzione, non è vincolante. Paradossalmente Westminster potrebbe decidere di andare contro la volontà popolare, politicamente è un suicidio, quindi non avverrà, però è un referendum consultivo, quindi chiaramente non c'è bisogno di quorum o altro, quello che esce. Le urne aprono alle 7, ora locale, chiuderanno alle 22, quindi alle 23 italiane, e come dicevamo prima non dovrebbero esserci exit poll, ma attenzione, già dalla sera, perché i movimenti sui mercati, America in chiusura e Asia in apertura, faranno capire cosa si sospetta, perché molti hedge fund hanno commissionato degli exit poll segreti e quindi cominceranno probabilmente già ad operare, e qualcosa potremmo capire su quello che gli exit poll dicono. Ovviamente, se il margine è molto molto incerto, consiglio comunque di aspettare la mattina, l'ora di colazione del 24, per avere i risultati definitivi. Dovrebbero arrivare appunto ora di colazione, ma già alle 5 alle 6 italiane, come diciamo prima, dovrebbe esserci un'idea, e quindi sapere dove tira il vento. Chiaramente, insomma, sarà una giornata molto molto molto, ecco, a cambio. Colazione, intendiamoci, prima colazione, perché come qua a Milano c'è l'abitudine di dire colazione per pranzo, colazione prima della vera colazione, 7-8 di mattina, speriamo non più tardi, e noi qui saremo in diretta sia per commentare il movimento dei mercati asiatici, hai ragione di dire che molti hanno commissionato il loro exit poll, che poi per dalle 6 in poi ritornare a dare l'aggiornamento, speriamo definitivo, comunque quello che diventerà definitivo nel corso delle ore. Grazie intanto a Sergio Nava, in collegamento con noi da Londra, dove è il nostro inviato. È tutto per questa puntata di Focus Economia. Da Sebastiano Berisoni, l'auguro di una buona serata. Noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Radio 24. La passione si sente.